Linee d'ombra di Matteo Caccia. Io mi sento comunque sempre italiano in primis, però diciamo che mi piacerebbe avere un rapporto un po' diverso con l'Albania, mi piacerebbe viverla un po' di più. Quello che capì è che noi ci volevamo bene anche senza le parole. L'amore dei piccoli gesti, la preparazione del caffè, una passeggiata insieme o ascoltare senza capire. Storie di un nipote e di un nonno e del più importante referendum mai avvenuto in Italia, in una puntata che si intitola Per amor di patria. Presidente, questo suo settenato non le ha risparmiato emozioni. No, emozioni. Questa per me e questa stavolta è un'emozione, sei venuto a cercarla lei rischiando. Più bella, più profonda che ho provato in questi 4 anni. 4 anni. Non 7, 4 anni. C'è stato anche un rischio politico in questa sua scelta di venire. No, di venire qui. No, ma che voleva che desse le dimissioni? Ma che lei scherza? Lei è uno di quelli che aspirano che io dia le dimissioni. Assolutamente no. E non le devo, da perché? Come ha vissuto questi 90 minuti interminabili ieri? Quando hanno segnato il secondo gol, allora sono già salito. Il morale era già in uno stato di morale sicuro, ecco, dice ci siamo, 2 gol siamo. Poi io calcolavo, dice ma quando finisce? Ma non finisce mai. E lui, Tonino, il meccanico, mi diceva ancora 20 minuti, poi 15, ma Dio, mi ha detto 20 minuti, soltanto 5 ne sono passati. Non vedevo l'ora che terminasse. Presidente, come l'ha presa il cancelliere Schmidt? Allora lo vado a chiedere a lui, no? Presidente, si è molto discusso, come lei avrà letto in Italia, sul significato di questa esultanza popolare attorno alle vittorie degli azzurri, no? C'è stata anche un po' di polemica. Qualcuno ha detto che si è ingrandito un po', che c'è stato il rischio di dimenticare i nostri problemi che rimangono. Ma i nostri problemi, ma buon Dio, ma insomma, che ci sia una sosta nelle preoccupazioni, nella tristezza, nella insoddisfazione, ci sia un po' di sosta. Dopo 6 giorni di lavoro viene la domenica, no? Ebbene, chi ha lavorato i 6 giorni ha il diritto alla domenica di andarsene con la famiglia a gioire sulla spiaggia, in montagna o altrove. E gli si deve dire come mai tu gioisci quando ti attende lunedì. Io penso adesso alla domenica e lunedì verrà a suo tempo. Usiamo la voce di Sandro Pertini, che torna da quella giornata memorabile che fu nel luglio dell'82 a Madrid, quando l'Italia vinse i campionati del mondo 3-1, battendo la Germania 3-1, e di quelle immagini ci si ricorda moltissimo, anche il viso di Sandro Pertini, la sua esultanza sugli spalti, e poi in aereo con tutta la squadra, la famosa partita a Scopa con Berzot e poi Causio e Zoff, se non ricordo male. Zoff sicuramente, forse insomma mi sbaglio su Causio, ma tant'è, e ci si ricorda moltissimo di questo presidente che era famoso perché era stato partigiano e quindi aveva avuto un passato anche molto schierato politicamente, cosa che accade quasi sempre, anche se poi diventare Presidente della Repubblica in qualche modo ti ripulisce di qualsiasi, diciamo, di qualsiasi passato politico e quindi di qualsiasi peccato originale per l'una o l'altra fazione politica, chiaramente più per l'una che per l'altra in base alla posizione che quel presidente aveva preso nel suo passato. Insomma, quindi il fatto che lui fosse stato socialista era inviso ad una parte, probabilmente la parte più di destra del Parlamento dell'epoca, ma tant'è, Sandro Pertini viene ricordato come uno dei presidenti più presenti e forse anche più patriottici che abbiamo avuto in questo paese negli ultimi anni, perché di questo parliamo oggi. La puntata si intitola Per amor di patria, va in onda in una giornata che non è una giornata qualunque, è il 2 di giugno, che è la festa della Repubblica. È festa della Repubblica perché in questa data venne indetto il referendum per decidere se gli italiani volevano la democrazia o la monarchia. Andò a finire in un modo molto evidente, perché appunto oggi non esiste più una monarchia in questo paese, e oggi vi racconteremo quella storia, cioè cercheremo di raccontare che cosa è accaduto quel giorno, come è andata, con tutte quante i pro e i contro di quella giornata. Prima però vi raccontiamo una storia, come sempre facciamo, che è una storia molto personale, che è la storia di un giovane ragazzo e del proprio nonno. Sono un nipote e un nonno di nazionalità diverse, perché il nipote è italiano e il nonno invece è albanese, ma soprattutto di lingue diverse. Quindi la cosa straordinaria di questa storia è ascoltare come queste due persone non riescono a capirsi a parole, non abbiano una lingua comune, ma si comprendano ovviamente in altri modi. E poi continueremo a raccontare i vostri diari della ripartenza, che potete continuare a mandare a lineedombra@radio24.it, e poi racconteremo invece la nostra storia seriale nuova che è cominciata ieri e che prosegue oggi, raccontandoci che cosa accade a una giornalista scientifica che si trova sommersa di mail piene di accuse, di insulti e di minacce anche personali, semplicemente per avere pubblicato un articolo che cercava di smontare la teoria delle scie chimiche. Insomma, una storia abbastanza terribile per come è accaduta, ma la protagonista ce la racconta con tutta la calma e il garbo del caso. Ma andiamo con ordine, stiamo con il nonno e il nipote che non parlano la stessa lingua. La puntata si intitola Per amor di patria, benvenuti a Linee d'Ombra. Io e mio nonno abbiamo un rapporto speciale. O meglio, avevamo, perché lui oggi non c'è più. Perché io e mio nonno non parliamo la stessa lingua. Io sono italiano e lui è albanese, o almeno così credevo. Ma ricapitoliamo. Mio papà è albanese e da 30 anni vive in Emilia. Mia mamma è metà sarda e metà emiliana ed è cresciuta in Veneto. Già per questo potrei essere definito un oriundo. Mio nonno, albanese, sempre vissuto tra Albania e Grecia. Ovviamente l'italiano non lo parlava. Più o meno verso i miei 15 anni, oggi ne ho 20, mio nonno, già molto anziano ma molto arzillo, incomincia a venire a trovarci in Italia ogni estate per un paio di mesi. E qui inizia il nostro legame. Un po' strano, ma molto forte. Primo giorno. Mio padre è al lavoro, mia madre pure. Io rimango con mia sorella piccola e con mio nonno. Premetto che io l'albanese non l'ho mai imparato, ma un paio di parole le conosco e in quei momenti evidentemente non seppi coniugarle bene, visto che mio nonno scoppiò in una fragorosa risata. Lui è stato un partigiano comunista, quindi dopo la rivoluzione, si chiama proprio così, è stato un ufficiale dell'esercito e albanese. Poi dopo ci sono stati dei problemi con il regime, quindi dopo è diventato bibliotecario. Era un tipo molto, molto, diciamo, schietto, se aveva una cosa da dire la diceva, era un tipo comunque anche generoso. Insomma, sempre rivolto verso gli altri, però mai non perdeva mai l'occasione di dire quello che pensava, e per questo ha avuto anche dei problemi. Una volta lui, parlando di mia cugina, disse in un misto italo-albanese: «Tua cugina ha dei bei capelli rossi». E io, non capendo niente, ma pensando di sì, risposi: «Eh già, fu proprio un grande Federico Barbarossa». E così anche a tavola, quando per chiedere se voleva del pollo per poco non mi misi a fare coccodè, o quando voleva le chiavi e io capivo parlasse di navi, e andammo avanti a discutere come due mimi per 10 minuti. E così ogni estate ho imparato delle nuove parole di albanese, fino ad arrivare a conoscere più o meno tutti i cibi che possono starci in un frigorifero. Almeno a tavola non ci furono più problemi. Quello che capii è che noi ci volevamo bene, anche senza le parole. L'amore dei piccoli gesti, la preparazione del caffè, una passeggiata insieme o anche l'ascoltare senza capire. Look in the mirror, who do you see? Someone familiar, surely not me. Thank you. somewhat familiar, her and her man. But it just can't be. Look at all the steps that brought you where you are today. Not until you see, as a heart grows stronger, sometimes love is pushed away. Uh-oh, looks like I'm seeing more of my old man in me. Oh no, looks like I'm seeing more of my old man in me. Uh-oh, looks like I'm seeing more of my old man in me. Oh no, looks like I'm seeing more of my old man in me. Purtroppo l'anno scorso mio nonno è mancato e io non sono riuscito ad andare a Tirana al suo funerale. Ma in Albania vige la tradizione che dopo un anno della morte i parenti si trovano per una commemorazione che suona più di festa che di lutto. Quel giorno, però, ho un esame all'università. Sono indeciso se partire o meno. Parto o non parto? Al diavolo l'esame. C'è qualcosa che mi dice di andare. Alla fine parto con la mia famiglia. Ed eccomi nel paese delle Aquile, che conoscevo molto poco, ma in cui, appena arrivato, sentii subito un'aria familiare. Camminando per il grande boulevard, mangiando il baklava, il dolce tipico albanese, e osservando la bellezza delle ragazze albanesi, capii subito che quel luogo non mi era affatto straniero. Eppure io mi sento italiano. Ma possibile che ci sia un legame magnetico che, appena tornato nel luogo di origine, ti fa sentire come se quel posto lo conoscessi da tempo? Nell'accoglienza calorosa di mia zia Alma, nelle parole sagge di mio zio Rolando e nella maestosità degli edifici di architettura comunista, sentii la nostalgia di un tempo che fu. Quindi, dopo la festa di commemorazione di mio nonno, torno a casa nella mia nebbiosa Emilia, con la consapevolezza acquisita che per andare avanti bisogna sapersi guardare indietro, ricordare sempre le proprie origini e non recidere i legami con le proprie radici. Inoltre ho capito che nessuno deve essere considerato straniero, almeno che non si senta tale, anche se non sa la lingua. Grazie, nonno e Curan. All my suffering, all useless. All my suffering to mange my face. When I'm far away, I forget. When I live far away, let the horse run. La puntata di oggi, l'abbiamo detto in apertura, si intitola Per amor di patria. È il 2 di giugno oggi e quindi si festeggia la festa della Repubblica, e l'amore per la propria patria o per il luogo da cui si viene, che sia una nazione, che sia un paese, che sia una campagna, una regione, lo si dimostra in moltissimi modi. La storia di Marco ci racconta come il rapporto con un nonno possa ricordarti che appartieni a un luogo e anche in qualche modo a un popolo. Pronto? Ciao Marco, buongiorno. Ciao Matteo, buongiorno. Come stai? Tutto bene? Sì, tutto bene, grazie. Come hai vissuto questo periodo che, insomma, adesso noi diciamo è un po' alle spalle, ma in realtà ci siamo ancora un pochettino dentro. Tu studi, giusto? Sì, io faccio ingegneria, sono al secondo anno e devo dire che non ne posso più, sinceramente. Non vedo l'ora di ritornare in classe. Perché ovviamente siete da remoto, fate lezione... Sì, facciamo lezione online, Zoom. Esami online, non ne posso più, insomma, la vita penso che sia un'altra cosa, la socialità è la cosa più importante, penso. Sono molto, molto, molto d'accordo con te. Quali sono le previsioni dopo l'estate, si diceva, per quanto riguarda l'università? Guarda, ho sentito dire che c'è autonomia nelle diverse università e quindi a seconda dei casi si deciderà se riaprire o no. Io spero che si riapra, ma sinceramente non sono convinto che sarà così, e quindi magari ci si dovrà anche muovere dal punto di vista di noi studenti per fare riaprire, perché è doveroso, penso. Assolutamente. Marco, senti, veniamo invece a tuo nonno, che è un personaggio di cui mi sono innamorato anche per il semplice fatto che non vi capivate. Questa cosa che non parlavate la stessa lingua ma vi capivate è fantastica. Che tipo era tuo nonno? Ma mio nonno, diciamo che era un tipo che sicuramente molto molto sincero e molto schietto. Lui diceva sempre quello che pensava, e questo, diciamo, che forse l'ha anche pagato nel regime albanese, perché insomma non era un posto dove si poteva dire tutto quello che si pensava all'epoca. E poi diciamo che è una persona che apprezzava molto il lavoro da altri tempi, una persona sì, insomma, sincera. Che cosa aveva fatto lui nella vita? Allora, lui aveva fatto, era stato partigiano, e quindi aveva partecipato, diciamo, alla rivolta che aveva portato poi alla sconfitta dei nazisti, insomma, dopo la guerra. E dopo era stato un ufficiale dell'esercito e poi in seguito ha fatto anche il bibliotecario. Ah, ok, quindi cose molto diverse tra di loro. Sì, era anche un po' la bellezza di stare in uno stato che è completamente diverso da quello che possiamo immaginare noi. Senti, quante volte è venuto in Italia lui? Lui è venuto diverse volte negli ultimi 7-8 anni da quando parte la mia storia, a ritroso, diciamo, e quindi sarà venuto 7-8 volte, insomma. E tu quante volte sei stato poi in Albania? Io in Albania sono stato un paio di volte prima di quest'ultima esperienza, e poi appunto a gennaio. A gennaio c'è stata questa celebrazione, giusto? Sì. C'è una parte di te che si sente adesso, grazie al rapporto con tuo nonno, che sente di appartenere in qualche modo all'Albania? Beh, tra l'altro l'Albania è tornata, diciamo, sugli scudi dopo la notizia che appunto il presidente dell'Albania ci mandava nel periodo più cupo dell'emergenza epidemia, ci ha mandato delle persone, dei medici e degli infermieri per aiutarci, quindi c'è stato finalmente un ribaltamento di ruoli, no? Perché la sensazione era abbiamo sempre molto aiutato gli albanesi e adesso ci aiutano anche loro. Poi in realtà le cose non sono mai così nette, sono sempre molto più sfumate di così. Che cosa ti piace di quel posto? Che cosa senti tuo? Beh, diciamo che io mi sono sempre stato orgoglioso della mia parte albanese, e posso dire che lì forse c'è ancora un legame con le cose semplici che forse qua si è un po' perso. Ok. E quindi, diciamo, le cose semplici, non so, il fatto magari di essere un po' più, ancora la natura un po' più rada, un po' più inesplorata rispetto ai nostri bellissimi luoghi, però sicuramente più, sì, insomma, più turistici, più... So che ad esempio le coste dell'Albania hanno degli scorci magnifici. Sì, infatti... Che sono intatti per certi versi. Sì, ho sempre sentito parlarne bene, però ti devo dire che io non li conosco più di tanto, infatti non vedo l'ora di poter vederli. Quest'estate pensi di andarci? Vedremo, perché insomma non è facile al momento muoversi, sicuramente la vacanza è un obiettivo, però senti, vedremo. Cosa stai studiando? Che esami stai preparando? Ah, adesso sto preparando un esame che si chiama Sistemi Operativi e insomma sono tosti, dai, però ce la perché facciamo. È ingegneria informatica, quindi immagino. Informatica ed elettronica. Ed elettronica. E quando ci ascolti? Ci ascolti in diretta, in podcast, all'alba? Ah, vi ascolto in diretta di solito dopo pranzo sul tardi e poi sì, vi ascolto. Bravissimo. Marco, grazie davvero per la chiacchierata, per la storia, ti faccio i migliori in bocca al lupo per la ripresa dell'università e per tutto quello che speri nel tuo futuro. Grazie a te, ciao Matteo. Grazie a Marco per questa storia che parla di amore di un nipote, amore di un nonno, ma parla anche di amore per la propria patria, qualunque essa sia, quella in cui si vive, quella in cui si è nati e cresciuti, ma anche la patria dei propri cari, dei propri anziani, è quella in qualche modo da cui si arriva. Questo lo conosciamo anche all'interno dei confini nazionali, che so io, un siciliano che vive in Lombardia e che torna a casa e sente che quella roba lì gli appartiene, anche se magari è nato a Sondrio e quando torna là non conosce nessuno, però quella terra, quei sapori fanno parte della sua vita e così via. Un piemontese, un emiliano, un laziale, insomma chiunque viva in una terra che è diversa da quella in cui è nato o in cui sono nati i propri cari, quando ci torna trova sempre qualcosa che gli ricorda di se stesso. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo e continuiamo a raccontare qui a Linea d'Ombra. Quante volte ascoltando le nostre storie ti è capitato di pensare: anche io ho vissuto una cosa simile, anche io ho una storia da raccontare? Ecco, se ti è successo, hai una sola possibilità. Fallo. Non aspettare. Torna a casa, apri il tuo computer e scrivi la tua storia. Un episodio circoscritto e preciso, un pezzo della tua vita che per te significa qualcosa di importante. Una storia che racconti un momento di passaggio, un confine tra chiaro e scuro, tra luci e ombre. Quando ti sei innamorato, quando hai scelto di cambiare le cose, quando da ragazzo un avvenimento anche piccolo ti ha segnato per sempre. Piccoli confini, sottili linee d'ombra che hai varcato. Scrivilo e spediscilo a lineedombra@radio24.it. Il tuo racconto diventa il cuore delle nostre storie. Ciao, sono Enrico Pagliarini. Mi sto domandando come sarà il mondo fra 14 anni. E allora spostiamo in avanti l'orizzonte e vi presentiamo 2024 più 10 interviste sul futuro. Una nuova serie solo in podcast su radio24.it. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linee d'Ombra. Ogni anno la festa della Repubblica si celebra il 2 di giugno, l'anniversario di quando nel 1946 oltre 24 milioni di italiani furono chiamati a votare per scegliere la forma di governo dell'Italia, Repubblica o Monarchia. In quei mesi l'Italia era appena uscita dalla Seconda Guerra Mondiale e il voto si svolse tra le macerie dei bombardamenti alleati e quelle delle demolizioni dei nazisti in ritirata, con centinaia di migliaia di italiani ancora sparsi per i campi di prigionia in tutto il mondo, intere province ancora sotto governo militare straniero e un clima che sembrava vicino a quello di una guerra civile. Alla fine gli italiani scelsero la Repubblica con 12.718.000 voti contro i 10.718.000 della monarchia. È in questa puntata, che si intitola Per amor di patria, la seconda storia di oggi è la storia di che cosa è accaduto quel giorno. Noi l'abbiamo letta sul Post. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Lo spoglio del risultato mostrò chiaramente che l'Italia era divisa in due metà. In tutte le province a nord di Roma, tranne Padova e Cuneo, vinse la Repubblica. In tutte le province dal centro e del sud, tranne in due, a Latina e a Trapani, vinse la monarchia. La Repubblica ottenne il risultato più ampio a Trento, dove conquistò l'85% dei consensi. La monarchia ottenne il risultato migliore invece a Napoli, con il 79% dei voti. Contemporaneamente gli italiani votarono anche per eleggere i membri dell'Assemblea Costituente. La Democrazia Cristiana ottenne la maggioranza relativa dei 556 deputati, ne ottenne 207. Mentre al secondo posto arrivarono i socialisti e i comunisti al terzo. Non tutti gli italiani ebbero l'opportunità di votare. Ad esempio non votarono i militari prigionieri di guerra nei campi degli alleati, alcuni si trovavano addirittura negli Stati Uniti, e gli internati in Germania, che stavano cominciando lentamente a ritornare in patria. Non si votò nella provincia di Bolzano, che dopo la creazione della Repubblica di Salò era stata annessa alla Germania e che dopo la fine della guerra era stata messa sotto governo diretto degli alleati. Non si votò nemmeno a Pola, a Fiume e a Zara, tre città italiane prima della guerra, ma che sarebbero passate alla Jugoslavia. E non si votò nemmeno a Trieste, sottoposta ad amministrazione internazionale e al centro di un complicato contenzioso diplomatico che si sarebbe risolto soltanto nel 1954, con il ritorno della città all'Italia. La leggenda è ancora molto diffusa, ma storici ed esperti ormai sono concordi nel dire che il voto si svolse in maniera regolare. Un distacco di quasi 2 milioni di voti è difficilissimo da creare artificialmente. Richiede la complicità di migliaia di persone e lascia dietro di sé una lunghissima scia di prove. La leggenda comunque è rimasta viva. in parte a causa del clima teso che si respirava in quelle settimane e che continuò per anni a incombere sull'Italia, e in parte perché lo spoglio e il processo con cui venne annunciato il referendum furono gestiti in maniera incerta e a volte decisamente pasticciata. Oggi il 2 giugno viene celebrato come una festa nazionale, ma 74 anni fa il clima era tutt'altro che festoso. I leader dei principali partiti, Democrazia Cristiana, Partito Socialista, Comunista e Repubblicano, erano quasi tutti a favore della Repubblica, ma temevano che al Sud i monarchici avrebbero potuto organizzare insurrezioni e rivolte e che, in caso di disordini, i carabinieri si sarebbero schierati con il re. Anche i repubblicani erano divisi tra loro. I centristi temevano che i comunisti stessero organizzando un colpo di Stato o una rivolta, non troppo diversa da quella scoppiata in Grecia in quei mesi. Dopo la proclamazione dei primi risultati, ci fu un vero e proprio scontro tra il governo provvisorio guidato dalla Democrazia Cristiana di Alcide De Gasperi e la monarchia. Al culmine, De Gasperi si rivolse al ministero della Real Casa, Falcone Lucifero, con una frase che in varie forme è entrata nella storia. Disse così: entro stasera o lei verrà a trovare me a Regina Celi o io verrò a trovare lei. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. Decisions bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me careless, leave me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. Alla fine vinse De Gasperi, che il 13 di giugno, prima che uscissero i risultati definitivi, proclamò il passaggio dei poteri dal re Umberto II al governo provvisorio. Il re denunciò il gesto, ma si rassegnò a lasciare il paese il giorno stesso, partendo in aereo per Lisbona, dove ad attenderlo c'era tutto il resto della sua famiglia, compreso suo padre, Vittorio Emanuele III, che aveva abdicato poche settimane prima in suo favore. Il periodo immediatamente successivo al referendum fu complicato e fu poco chiaro, finendo per alimentare il sospetto di irregolarità. I primi risultati arrivarono il 4 giugno e sembravano dare in vantaggio la monarchia. Durante la notte e la mattina del 5, la Repubblica passò in netto vantaggio e il 10 la Corte di Cassazione proclamò il risultato. 12 milioni di voti a favore della Repubblica e 10 a favore della monarchia. A sorpresa, nel comunicato si utilizzò una formula dubitativa che rimandava l'annuncio definitivo al 18 giugno, dopo l'esame delle contestazioni presentate soprattutto dai monarchici. La più importante e improbabile era arrivata da un gruppo di professori secondo cui la Repubblica avrebbe potuto proclamarsi vincitrice soltanto in caso di conquista della maggioranza assoluta dei voti, cioè solo se avesse ottenuto la maggioranza di tutti i voti espressi, contando anche schede bianche e schede nulle. In altre parole, sostenevano, alla Repubblica non sarebbe bastato superare la monarchia per proclamarsi vincitrice. Intanto erano in corso scontri, soprattutto al sud. A Napoli, un gruppo di monarchici attaccò una sede del Partito Comunista in cui si era rifugiato anche il giovane Giorgio Napolitano. Quando la polizia intervenne, 9 manifestanti furono uccisi. Il 13 di giugno il clima era diventato così teso che De Gasperi decise di forzare la mano agli eventi e, senza attendere il responso della Cassazione di 5 giorni dopo, proclamò il passaggio di poteri dal re al governo. Oh bella Italia mia, lontan da te, ma nel mio cuore sempre t'ho trovata, in sogno ti ho veduta, sai perché? Cantando l'italiana, io vedo il ciel sereno e sento nelle vene il tuo bel sole d'oro. Rivedo la mia casa, rivedo il mio paese, è bello fra le rose il viso del mio amore. Profumano le valli nell'ombra della sera, o eterna primavera nel mio paese in al finto ritrovata, o immagine lontana, cantando all'italiana una canzone d'amore. Questa sorta di bigino del 2 di giugno, questo riassunto del referendum tra monarchia e repubblica, noi l'abbiamo trovato su Il Post, ve l'abbiamo raccontato proprio per celebrare questa giornata e per ricordare da dove arriviamo e perché appunto il 2 di giugno qui in Italia, che è una democrazia, è festa. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare prima i vostri diari della ripartenza e poi la nostra storia seriale che continua. State con noi. Linee d'ombra. Come sta ripartendo questo nostro paese? Come stiamo cominciando a rivivere la nostra vita, a uscire dai nostri confini che erano state le quattro mura per 2 mesi, per più di 2 mesi? Ebbene, ve lo stiamo raccontando, vi stiamo raccontando in che modo ognuno di noi prende, apre la porta di casa sua e torna a rifare quello che abitualmente faceva. Questo diario è un diario molto carino perché racconta di una scampagnata, di un giro in bicicletta e a un certo punto racconta di un confine che non si capisce se si può varcare oppure no. Mi sveglio come al solito presto, anche se è sabato, oggi non si lavora. È una settimana che vado al lavoro solo al pomeriggio, dalle 14 alle 18, per non affollare troppo gli ambienti di lavoro. Oggi con mia moglie avevamo pensato di passare una giornata diversa, ma dove? Montagna, lago, collina, mare, Qui in Veneto abbiamo tante possibilità di muoverci restando dentro la nostra bellissima regione. Ci sediamo proprio a tavolino con la cartina geografica distesa e vagliamo le varie alternative. Sottomarina, Peschiera del Garda, Asiago, Lessinia, Recuaro Mille. Il tempo passa e dopo aver guardato le varie webcam abbiamo deciso. Carichiamo le biciclette in macchina con l'obiettivo di andare a Peschiera del Garda e percorrere la pista ciclabile Peschiera Borghetto. Una quindicina di chilometri in piano, molto bella, già fatta parecchie volte, ma da riscoprire. Prepariamo tutto, bibite, frutta, vestiti di ricambio, mascherine, guanti, gel e si riparte. In autostrada c'è poco traffico e anche all'uscita di Peschiera, che di solito è molto trafficata, non c'è nessuno. Parcheggiamo al nostro solito posto, scarichiamo le bici, su lo zaino, montiamo in sella e partiamo. C'è un bel sole caldo, il cielo è azzurro e lungo il Mincio l'aria è perfetta, si sta proprio bene. L'idea è di arrivare a Borghetto, piccolo paesello sul Mincio, molto caratteristico, mettere giù le bici e camminare per il Borghetto nel vero senso della parola. Pedaliamo veloci, i colori sono bellissimi, il verde dei campi, l'azzurro del fiume, si sta proprio bene. Incontriamo 4 o 5 persone in bici, tutti con la mascherina, e nell'altra sponda è pieno di pescatori in posizione molto distanziata. Si chiacchiera della natura, di cosa faremo al ritorno, sdraiarsi in qualche spiaggetta solitaria lungo il lago, prendere un po' di sole, ma ad un certo punto, pedalando veloce, punto l'occhio su un piccolo cartello di colore marrone, è piantato in basso, sull'argine, e sopra c'è scritto «Qui inizia la provincia di Mantova». Ci fermiamo quasi di colpo, ci pensiamo un attimo. Mantova è Lombardia, siamo fuori dalla nostra regione. Subito tiro fuori il telefono, Google Map. È vero, la ciclabile per alcuni tratti entra in Lombardia e è segnato chiaramente. Poi rientra in Veneto perché la nostra meta, Borghetto, è in provincia di Verona. Ci guardiamo un attimo, ci domandiamo cosa fare, poi però ci diciamo che siamo stati bravi fino adesso. In questo lungo periodo abbiamo rispettato sempre le regole, dico sempre con impegno e serietà. E allora giriamo la bici e torniamo indietro. 4 pedalate e torniamo nel nostro amato Veneto. La fantasia dei popoli che è giunta fino a noi non viene dalle stelle. Alla riscossa stupidi che i fiumi sono in piena, potete stare a galla. E non è colpa mia se esistono carnefici, se esiste l'imbecillità. Se le panchine sono piene di gente che sta male, oh, Patriot Storms, oh, Gauchez-vous, la musica contemporanea mi butta giù. Per conto della borghesia che crea falsi miti di progresso. Chi vi credete che noi siamo? Per i capelli che portiamo, noi siamo delle lucciole che stanno nelle tenebre. Direttori artistici

così molti preferiscono rimanere nel mondo delle cospirazioni globali, quello in cui le bufale volano, ad esempio. Grazie a Silvia Bencivelli per permetterci di raccontare la sua storia, grazie a Mauro Pescio che la raccoglie, grazie a tutti quelli che rendono possibile Linee d'Ombra, Anita Panizza, Paolo Corleoni e Luca Micheli. Vi ricordo che sul nostro profilo Facebook potete trovare un piccolo riassuntino di ogni puntata e anche la playlist, cioè le canzoni scelte da Luca per ciascuna di queste puntate. Ora diamo la linea al GR e noi torniamo puntualissimi domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!